sotto pressione. La pandemia, gli ospedali bolognesi, gli altri malati. Un'inchiesta a cura di Francesca Chiamenti. I pazienti non Covid non sono i soli a vivere sulla propria pelle un sistema sanitario saturo ed esausto. Il reparto di oncologia, ad esempio, ha subito già durante la prima ondata importanti fermi e ritardi che ora si sta cercando di smaltire. Come riportato dall'assessore comunale alla sanità Giuliano Barigazzi, nella primavera di quest'anno sono state bloccate su disposizione regionale le mammografie di primo livello di screening. Era incominciato inoltre un piano di recupero che ha permesso, a partire dall'estate, di recuperare quasi la metà delle circa 25.000 mammografie arretrate. Tale recupero, che viene svolto come attività aggiuntiva, avrebbe dovuto essere completato nei primi mesi del prossimo anno. Oltre alla gestione dei rinvii, la medicina non d'urgenza si è dovuta anche reinventare nelle modalità di assistenza ai pazienti. È questo il caso del ramo della medicina che si occupa di malattie rare o croniche. Giovanni Battista Pesce, presidente della sezione Emilia-Romagna di AICE, Associazione Italiana contro l'Epilessia, ci racconta infatti come la telemedicina sia entrata a far parte delle nuove dinamiche di assistenza. La maggior parte delle visite viene fatta in telemedicina. Cioè, lo sviluppo del prima proprio era quasi pressoché inesistente per la sul mondo dell'epilessia, invece adesso proprio il Covid ha da una parte obbligato a questo contatto, che si è dimostrato positivo, nel senso che uno facilita il contatto, l'altro permette che senza spostamenti delle persone. Per cui credo che la telemedicina, Covid o non Covid, manterrà in futuro una valenza molto più diffusa nella cura dell'epilessia. Alcuni rami della medicina che segue le malattie neurologiche sono invece riusciti a mantenere il proprio livello standard di assistenza medica. Un esempio ci è stato raccontato da Filippo Martone, presidente di Assisla Onlus, associazione regionale per l'assistenza integrata contro la sclerosi laterale amiotrofica. In generale la SLA poi va vista con molta attenzione, nel senso che alcuni malati a un certo momento della loro malattia non riescono più a muoversi dal loro domicilio, per cui sono comunque seguiti al domicilio. Il percorso ha delle articolazioni che arrivano a casa dei pazienti, li seguono anche quotidianamente, quindi c'è tutta una struttura che prevede le visite nelle fasi iniziali della malattia, quando il paziente può venire all'IEX, e questo avviene regolarmente, due volte alla settimana, sono visite normalmente in presenza di un team medico multidisciplinare, e il paziente praticamente in una mattina esaurisce tutte le visite che deve fare, vengono fatte o coralmente o conseguenzialmente, e poi ora di pranzo torna a casa. Quindi tutto questo avviene ancora, grazie a Dio, senza intoppi, perché si è preservata questa zona, che è una zona che segue malati neurologici ma anche malati oncologici, da quello che è il discorso della gestione dei malati Covid. Mi auguro si possa fare fino in fondo. Il blocco delle visite e delle cure in presenza non è però l'unico ostacolo incontrato dai pazienti affetti da malattie rare o croniche. In campo farmacologico, infatti, il presidente di AICE Pesce ha sottolineato la difficoltà di reperire i farmaci anticonvulsionanti. Per le persone con epilessia in questa fase, quelle che abbiamo riscontrato, non sono determinate dalla questione del coronavirus, eccetera. Purtroppo la massima e concomitante criticità che è venuta a manifestarsi dall'ottobre scorso, cioè non il mese precedente ma dall'anno precedente, proprio dagli inizi della Covid, è stata le criticità relativi ai farmaci anticonvulsivanti, perché abbiamo avuto dall'altro ottobre continua comunicazione di carenza o di sospensione di produzione di farmaci antipilettici da parte dell'AIFA. Questo è stata è la cosa che attualmente è ancora più grave, nel senso che siamo passati dalla dichiarazione che alcuni farmaci non non si trovassero più facilmente in farmacia, addirittura alla sospensione di produzione, come per il Depamag, esattamente, e la persona veniva a sapere di questa carenza proprio nel momento in cui, terminati i farmaci a disposizione, andava a ristorare le riserve e il farmacista gli diceva: no, guardi, questo farmaco è in carenza. E puoi immaginare qual è stato l'impatto per le persone che uno non trovavano il farmaco, o due che addirittura gli era stato sospeso il farmaco, la produzione non veniva più fatta, per cui doverlo cambiare, quant'altro. Questo è stato il dramma più grosso. Sì, ci sono degli incroci relativi, ad esempio alcuni farmaci veramente hanno subito una criticità relativamente alle difficoltà di commercializzazione, di trasporto, di produzione del principio attivo e quant'altro. Altri invece sono stati sospesi per questioni aziendali, nel senso che magari una multinazionale compra una serie di aziende, si ritrova nello stesso pacchetto dei farmaci in concorrenza e sospende quello meno profittevole. Proprio per poter ovviare a questo problema, Pesce spiega come sia stata avanzata la proposta di creazione di un'allerta per questo tipo di carenza. Vedo, la cosa più che è emersa proprio sulla carenza dei farmaci delle persone con epilessia ha determinato una proposta, che adesso è in esame proprio all'Agenzia Italiana del Farmaco, di creare un'allerta in carenza di farmaci, ma questo non solo per l'epilessia, ma per tutte le patologie croniche invalidanti. Nel senso che avere accesso alla banca dati dell'AIFA, poter segnare come cittadini i farmaci di cui si ha necessità, eccetera, in modo che appena entrino in carenza una persona venga avvisata con un messaggio di posta elettronica, mi spiego, e non lo sappia dopo mesi a esaurimento di scorte. Questa è una proposta nata proprio nel mondo dell'epilessia, AICE, eccetera, che l'AIFA sta valutando e speriamo che a breve venga recepita. come per i malati Covid, anche per questo tipo di pazienti la questione del personale sanitario è un tassello fondamentale. Gli scenari però sono diversi. In un confronto tra prima e seconda ondata, il presidente di ASSI SLA Onlus Martone evidenzia come la situazione dell'assistenza ai malati di SLA sia mutata. Attualmente no, mentre nella prima ondata molto di questo personale è stato distratto e appunto impiegato nei reparti Covid, adesso qui non ci sono e quindi non viene distratto personale in questo momento per quello che riguarda il percorso SLA, che comunque il personale ne impiega tanto relativamente al numero dei malati ovviamente, e per il momento non abbiamo problemi di questo tipo. Scenario differente quello descritto da Francesca Testoni, direttrice generale AGEOP Ricerca. La situazione del personale sanitario potrei dire che è eroica, nel senso che proprio perché nel momento in cui ad esempio ci sono bambini per cui viene attivata la procedura Covid, cioè se un bambino arriva da fuori, ovviamente fino a che non si hanno i tamponi negativi viene trattato come un possibile Covid, no? Per cui questo che cosa vuol dire? Che il personale infermieristico che va da quel bambino deve essere vestito esattamente come se si trattasse di un bambino positivo. Tutto quello che esce da quella stanza, carrelli e quant'altro, segue tutto un percorso. Ovviamente, se un infermiere è tutto bardato nella camera del bambino sotto sorveglianza e suona in un'altra camera un altro bambino, non è che quell'infermiere possa uscire bardato com'è e andare da un altro bambino. Questo cosa vuol dire? Che non essendoci personale in più, il personale che c'è lavora il doppio. E questo è un dato, oltre ai sacrifici che il nostro personale, il personale della clinica sta facendo in termini di vita privata, perché consapevoli della responsabilità che hanno, anche i medici e gli infermieri più giovani praticamente si sono messi in una pseudo quarantena da soli, non frequentano, non vanno, perché sanno che hanno la responsabilità dei pazienti. Il grosso problema, se posso concludere, che è di tutte le città, come si legge sui giornali, è proprio quella dell'accoglienza ai malati, soprattutto nelle grandi città dove ci sono i grandi policlinici, dove afferiscono persone appunto anche da fuori di provincia, da fuori della città metropolitana. Il problema cogente è proprio quello dell'accoglienza, a cui anche noi come associazione dobbiamo fare fronte. In conclusione della nostra analisi ci siamo interrogati su come questa pandemia e lo stravolgimento del sistema sanitario abbia influito anche sulla sfera della salute mentale dei pazienti più fragili. Ce lo racconta Carlo Anau, membro del Comitato Utenti, Familiari e Operatori del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Bologna. Nel Dipartimento Salute Mentale confluisce anche la problematica del ritardo mentale, del comportamento, disturbi del comportamento autistici, che complicano notevolmente la vita nel momento in cui c'è la pandemia, perché quando si chiudono i centri diurni, quando si chiudono, addirittura è successo, si chiude l'ingresso nelle residenze, addirittura si chiude la residenza, ecco allora, e questo è successo per delle persone anziani, no? Soprattutto, per fortuna non è successo per le persone con disabilità mentale e disturbi del comportamento non anziani, perché anche lì, nonostante sia avvenuto qualche caso di Covid, il problema grosso modo si può dire gestibile. C'è stato quindi all'interno di questo Dipartimento Salute Mentale la registrazione di questo grandissimo disagio delle famiglie, che soprattutto quelle con bambini o ragazzi che andavano a scuola, che si sono trovate col bambino o ragazzo certificato con disabilità mentale che doveva restare a casa e avrebbe dovuto collegarsi con i professori e con gli educatori, gli insegnanti di sostegno, e con gli educatori appositi per il sostegno soltanto via internet. Lì proprio la cosa, tranne rari casi, non funziona in modo più assoluto. Allora lì, per poter provvedere, occorreva veramente un qualcosa di diverso, come succede già per le patologie che implicano che i bambini, il ragazzo non possa andare a scuola, lì bisognava fare la scuola a domicilio. E però c'è stato un rifiuto da parte di molti operatori che ha complicato tutto, perché rifiutando di andare a domicilio, temendo che ci fosse il Covid nelle famiglie, tutte cose secondo me che avrebbero potuto essere ovviate facendo tamponi, quindi andando a vedere prima, però bastava accettare un rischio moderato, moderandolo appunto con tamponi sull'allievo con disabilità, sulla sua famiglia e perché no anche sugli operatori. E allora con maggiori attenzioni avrebbero potuto fare un servizio anche fuori dalla scuola. Thank you. Fujiko Inchieste. Sotto pressione. La pandemia, gli ospedali bolognesi, gli altri malati. Un'inchiesta a cura di Francesca Chiamenti.